Ad alta voce, Michela Cescon legge Le piccole virtù di Natalia Ginzburg. Quinta puntata. Ci rammarichiamo col nostro amico di essere dello stesso sesso, perché ci saremmo sposati se fossimo stati di sesso diverso, per poter stare sempre, sempre insieme. Non avremmo avuto paura uno dell'altro, né vergogna, né orrore. Così invece resta un'ombra sulla nostra vita, che adesso potrebbe anche essere felice, il non sapere se un giorno una persona dell'altro sesso ci potrà amare. Le persone dell'altro sesso ci camminano accanto, ci sfiorano passando per strada, hanno forse dei pensieri o dei disegni su di noi che non potremo mai sapere. Hanno in mano il nostro destino, la nostra felicità. C'è fra loro forse la persona che va bene per noi, che potrebbe amarci e che noi potremmo amare, la persona giusta per noi. Ma dov'è? Come riconoscerla? Come farci riconoscere nella folla della città? In quale casa della città, in quale punto della terra vive la persona giusta per noi, in tutto simile a noi, pronta a rispondere a tutte le nostre domande, pronta ad ascoltarci all'infinito, senza noia, a sorridere dei nostri difetti, ad abitare per tutta la vita con il nostro viso? Che parole dovremmo pronunciare perché ci riconosca tra mille? Come dovremmo vestirci? In quali luoghi dovremmo andare per incontrarla? Tormentati da questi pensieri, soffriamo d'un'immensa timidezza in presenza delle persone di un sesso diverso dal nostro, nella paura che una di loro sia la persona giusta per noi e che possiamo perderla con una parola. Pensiamo a lungo tutte le parole prima di pronunciarle e le pronunciamo in fretta, con voce strozzata. La paura ci dà uno sguardo cupo e dei piccoli gesti secchi. Ce ne rendiamo conto, ma ci diciamo che la persona fatta per noi dovrà riconoscerci. Anche a quei gesti secchi e a quella voce strozzata. Se non mostra ad accorgersi di noi è perché non è la persona giusta. La persona giusta ci riconoscerà e ci sceglierà fra mille. Aspettiamo la persona giusta. Ogni giorno, alzandoci al mattino, ci diciamo che potrà essere proprio per quel giorno l'incontro. Ci vestiamo e ci pettiniamo con cura infinita, vincendo la voglia d'uscire con un vecchio impermeabile e delle scarpe sformate. La persona giusta può trovarsi all'angolo della strada. Mille e mille volte ci crediamo in presenza della persona fatta per noi. Il nostro cuore batte tumultuosamente al suono d'un nome, alla curva d'un naso o d'un sorriso, solo perché dentro di noi abbiamo deciso di colpo che quello è il naso, il nome, il sorriso della persona fatta per noi. Un'automobile con le ruote gialle, una vecchia signora, ci fanno impetuosamente arrossire perché noi li crediamo l'automobile e la madre della persona giusta per noi. L'automobile dove faremo il nostro viaggio di nozze, la madre che dovrà benedirci. Di colpo ci accorgiamo d'esserci sbagliati. Non era quella la persona giusta. Le siamo assolutamente indifferenti e non ne soffriamo perché non abbiamo il tempo di soffrire. Di colpo l'automobile con le ruote gialle, il nome e il sorriso scoloriscono e precipitano fra le mille cose inutili che circondano la nostra vita. Ma non abbiamo il tempo di soffrire, stiamo partendo per la villeggiatura e siamo assolutamente certi che in villeggiatura incontreremo la persona giusta. Ci separiamo quasi senza dolore dal nostro amico con gli occhi rotondi, sicuri come siamo che il treno ci porterà dalla persona giusta e l'amico dal canto suo è sicuro della stessa cosa per sé. Chissà perché d'un tratto siamo certi che la persona giusta si incontra in villeggiatura d'estate. Passano i lunghi mesi dell'estate, noiosi e in solitudine. Scriviamo al nostro amico delle lettere interminabili. Per consolarci del mancato incontro, raccogliamo accuratamente giudizi favorevoli su di noi, dati da vecchi conoscenti di famiglia o da vecchi parenti, e li trascriviamo al nostro amico. Lui, dal canto suo, ci scrive lettere simili, con giudizi favorevoli sulla sua intelligenza o bellezza, dati dai suoi vecchi parenti. Nell'autunno dobbiamo confessare a noi stessi che non è successo niente di straordinario, ma non siamo delusi, è l'autunno. Si ritrova con animazione e piacere l'amico e gli altri compagni. Ci buttiamo contenti nell'autunno. La persona giusta ci aspetta, forse, all'angolo del viale. Poi ci distacchiamo dal nostro amico a poco, lo troviamo piuttosto noioso, borghese. Ha sempre la mania della distinzione, della finezza. Noi adesso vogliamo essere poveri. Ci interessiamo a un gruppo di compagni poveri. Ci rechiamo ogni giorno con orgoglio alla loro casa non riscaldata. Portiamo adesso il nostro vecchio impermeabile con orgoglio. La persona giusta contiamo sempre di incontrarla, ma deve amare il nostro vecchio impermeabile, deve amare le nostre scarpe sformate, le nostre sigarette da pochi soldi, le nostre mani rosse e nude. Vestiti del nostro vecchio impermeabile, camminiamo soli verso sera lungo le case di periferia. Abbiamo scoperto la periferia, le insegne delle piccole osterie sul lungo fiume. Sostiamo assorti davanti a certi negozietti dove sono appese delle lunghe camiciole rosa, delle tute da operaio e delle mutande color caffè latte. Ci incantiamo davanti a una vetrina dove giacciono vecchie cartoline e vecchie forcine. Ci piace tutto quello che è vecchio, polveroso e povero. Di cose povere e polverose noi andiamo a caccia per la città. Piove intanto a dirotto sul nostro vecchio impermeabile che lascia passare l'acqua sulla nostra testa nuda. Noi non abbiamo ombrello. Piuttosto che uscire con un ombrello ci faremo ammazzare. Non abbiamo ombrello né cappello né guanti né soldi per prendere il tram. Tutto quello che abbiamo è in tasca un fazzoletto sporco, delle sigarette pestate e dei fiammiferi da cucina. D'improvviso ci siamo detti che i poveri sono il prossimo. I poveri sono il prossimo che bisogna amare. Vigiliamo il passaggio dei poveri intorno a noi. Spiamo l'occasione d'accompagnare un mendicante cieco che deve attraversare la strada, di offrire il nostro braccio a qualche vecchia scivolata in una pozzanghera. Carezziamo timidamente, con la punta delle dita, i sudici capelli dei bambini che giocano nei vicoletti. Torniamo a casa fradici di pioggia, infreddoliti e trionfanti. Noi non siamo poveri. Non passiamo la notte sulla panchina d'un giardino pubblico, non mangiamo una zuppa scura in un tegame di stagno. Non siamo poveri, ma solo per caso. Saremo poverissimi domani. Intanto l'amico che abbiamo smesso di frequentare soffre per causa nostra, così come aveva sofferto il primo della classe quando avevamo smesso di frequentarlo. Noi lo sappiamo, ma non ne abbiamo rimorso. Anzi, ne abbiamo una specie di piacere sordo, perché se qualcuno soffre per causa nostra, è segno che abbiamo nelle nostre mani il potere di far soffrire. Noi che ci eravamo creduti per tanto tempo così deboli e insignificanti. Non ci viene il dubbio che siamo forse cinici e cattivi, perché non ci viene il dubbio che anche quel nostro amico sia il prossimo. E neppure pensiamo che siano il prossimo i nostri genitori. Il prossimo sono i poveri. I nostri genitori li guardiamo severamente mentre mangiano dei buoni cibi alla tavola illuminata. Anche noi mangiamo quei buoni cibi, ma pensiamo che è un caso e sarà così ancora per pochissimo tempo. Fra poco non avremo che un po' di pane scuro e un tegame di stagno. Un giorno incontriamo la persona giusta. Restiamo indifferenti perché non l'abbiamo riconosciuta. Passeggiamo con la persona giusta per le strade di periferia. Prendiamo a poco l'abitudine di passeggiare insieme ogni giorno. Di tanto in tanto, distratti, ci chiediamo se non stiamo forse passeggiando con la persona giusta, ma crediamo piuttosto di no. Siamo troppo tranquilli. La terra, il cielo non sono mutati. I minuti e le ore fluiscono quietamente, senza rintocchi profondi nel nostro cuore. Noi ci siamo sbagliati già tante volte. Ci siamo creduti in presenza della persona giusta e non era. E in presenza di quelle false persone giuste, cadevamo travolti da un tale impetuoso tumulto che quasi non ci restava più la forza di pensare. Ci trovavamo a vivere come al centro d'un paese incendiato. Alberi, case, oggetti divampavano intorno a noi. E poi di colpo si spegneva il fuoco. Non restava che un po' di brace tiepida. Alle nostre spalle i paesi incendiati sono tanti che non possiamo più nemmeno contarli. Adesso niente brucia intorno a noi. Per settimane e mesi passiamo i giorni con la persona giusta senza sapere. Solo a volte, quando rimasti soli, ripensiamo a questa persona, la curva delle sue labbra, certi suoi gesti e inflessioni di voce, nel ripensarli ci danno un piccolo sussulto al cuore. Ma non teniamo conto d'un così piccolo, sordo sussulto. La cosa strana con questa persona è che ci sentiamo sempre così bene in pace, con un largo respiro, con la fronte che era stata così aggrottata e torva per tanti anni d'un tratto distesa, e non siamo mai stanchi di parlare e ascoltare. Ci rendiamo conto che mai abbiamo avuto un rapporto simile a questo con nessun essere umano. Tutti gli esseri umani ci apparivano dopo un poco così inoffensivi, così semplici e piccoli. Questa persona, mentre cammina accanto a noi col suo passo diverso dal nostro, col suo severo profilo, possiede un'infinita facoltà di farci tutto il bene e tutto il male. Eppure noi siamo infinitamente tranquilli. E lasciamo la nostra casa e andiamo a vivere con questa persona per sempre. Non perché ci siamo convinti che è la persona giusta, anzi non ne siamo affatto convinti e abbiamo sempre il sospetto che la vera persona giusta per noi si nasconda chissà dove nella città. Ma non abbiamo voglia di sapere dove si nasconde. Sentiamo che ormai avremo ben poco da dirle. Perché diciamo tutto a questa persona, forse non giusta, con cui adesso viviamo. E il bene e il male della nostra vita noi vogliamo riceverlo da questa persona e con lei. Scoppiano fra noi e questa persona ogni tanto violenti contrasti, eppure non riescono a rompere quella pace infinita che è in noi. Dopo molti anni, solo dopo molti anni, dopo che fra noi e questa persona si è intessuta una fitta rete di abitudini, di ricordi e di violenti contrasti, sapremo infine che era davvero la persona giusta per noi, che un'altra non l'avremo sopportata, che solo a lei possiamo chiedere tutto quello che è necessario al nostro cuore. Adesso, nella nuova casa dove siamo venuti a vivere e che è nostra, non vogliamo più essere poveri, anzi abbiamo un po' di paura della povertà. Sentiamo uno strano affetto per gli oggetti che ci sono intorno, per un tavolo o per un tappeto, noi, che rovesciavamo sempre l'inchiostro sui tappeti dei nostri genitori. Questo nostro nuovo affetto per un tappeto ci preoccupa un poco, ne abbiamo un po' di vergogna. Andiamo ancora qualche volta a passeggio per le strade di periferia, ma ritornando a casa ci puliamo con cura sullo stuoino le scarpe infangate e sentiamo un piacere nuovo a sederci a casa, sotto la lampada, con le imposte serrate sulla città buia. Non abbiamo più molta voglia di amici, perché tutti i nostri pensieri li raccontiamo alla persona che vive con noi, mentre mangiamo insieme la minestra alla tavola illuminata. Agli altri ci sembra che non valga la pena di raccontare più niente. Ci nascono dei figli e cresce in noi la paura della povertà, anzi crescono in noi paure infinite, d'ogni possibile pericolo o sofferenza che possa colpire i nostri figli nella loro carne mortale. La nostra stessa carne, il nostro corpo, non l'avevamo mai sentito in passato fragile e mortale. Eravamo pronti a scagliarci nelle più impreviste avventure, pronti sempre a partire per i luoghi più lontani, fra i lebbrosi e i cannibali. Ogni prospettiva di guerre, di epidemie o di catastrofi cosmiche ci lasciava del tutto indifferenti. Non sapevamo che ci fosse nel nostro corpo tanta paura, tanta fragilità. Mai avevamo sospettato di poterci sentire così legati alla vita da un vincolo di paura, di tenerezza straziante. Com'era forte e libero il nostro passo quando si camminava soli all'infinito per la città. Guardavamo con grande commiserazione le famiglie, i padri e le madri a passeggio piano piano con le carrozzelle dei bambini la domenica sui viali. Ci parevano una cosa noiosa e triste. Adesso siamo noi, una di queste famiglie, e non siamo tristi. Siamo anzi forse felici, ma di una felicità che ci è difficile riconoscere. Nel panico in cui siamo di poterla perdere da un momento all'altro per sempre. Il bambino nella carrozzella che spingiamo è così piccolo, così debole. L'amore che ci lega a lui è così doloroso, così spaventato. Abbiamo paura d'un soffio di vento, d'una nuvola in cielo. Non verrà la pioggia? Noi che avevamo preso tanta pioggia a testa nuda coi piedi nelle pozzanghere, adesso abbiamo un ombrello. E ci piacerebbe avere anche un portaombrelli a casa nell'anticamera. Ci colgono i desideri più strani, che mai avremmo supposto di poter avere quando andavamo soli e liberi per la città. Vorremmo un portaombrelli e degli attaccapanni, delle lenzuola, degli asciugamani, un forno da campagna, una ghiacciaia. Non cerchiamo più la periferia. Andiamo per i viali, tra ville e giardini. Stiamo attenti che ai nostri bambini non s'accosti la gente troppo sudicia e povera, per paura di pidocchi e di malattie. Sfuggiamo i mendicanti. Amiamo i nostri figli in un modo così doloroso, così spaventato, che ci sembra di non avere mai avuto altro prossimo, di non poterne avere mai altro. Siamo ancora poco abituati alla presenza dei nostri figli sulla terra. Siamo ancora stupefatti e sconvolti per la loro comparsa nella nostra vita. Non abbiamo più amici, o meglio, a quei pochi amici che abbiamo, pensiamo subito con odio se il nostro bambino sta male. Ci pare quasi che sia colpa loro, per il fatto che in loro compagnia ci siamo distratti da quell'unica straziante tenerezza. Non abbiamo più vocazione. Avevamo una vocazione, un caro mestiere, e adesso se appena vi prestiamo orecchio, subito ci sentiamo colpevoli. Torniamo a precipizio su quell'unica tenerezza straziante. Una giornata di sole, un paesaggio verde, significa per noi soltanto che il nostro bambino potrà abbronzarsi al sole o giocare nel verde. Noi per conto nostro abbiamo perso ogni facoltà di godimento o di contemplazione. Gettiamo sulle cose uno sguardo sospettoso e convulso. Guardiamo se non ci sono chiodi arrugginiti, scarafaggi, pericoli per il nostro bambino. Vorremmo abitare paesi puliti e freschi, con animali puliti e abitanti gentili. Il selvaggio universo che ci affascinava non ci affascina più. E come siamo diventati stupidi, pensiamo con rammarico certe volte guardando la testa del nostro bambino che c'è così familiare. Familiare come non c'è stata mai nessuna cosa al mondo, guardandolo mentre è seduto a fare una collina di terra con le sue grasse mani. Come siamo diventati stupidi e come sono piccoli e torbidi i nostri pensieri, piccoli che potrebbero entrare in un guscio di nocciola, eppure così faticosi, così soffocanti. Ma dove è andato il selvaggio universo che ci affascinava? La nostra forza, il ritmo vivo e libero della nostra giovinezza, l'ardita scoperta delle cose giorno per giorno, il nostro sguardo risoluto e glorioso, il nostro passo trionfante. Dov'è adesso il prossimo per noi? Dov'è adesso Dio? Dio. Noi ci ricordiamo di parlargli soltanto quando il nostro bambino è malato. Allora gli diciamo che ci faccia cascare tutti i denti, tutti i capelli, ma guarisca il nostro bambino. Appena il bambino è guarito, dimentichiamo Dio. Abbiamo ancora denti e capelli e riprendiamo i nostri piccoli pensieri torpidi e faticosi. Chiodi arrugginiti, scarafaggi, praticelli freschi, pappette di farina. Anche siamo diventati superstiziosi. Di continuo facciamo le corna. Siamo seduti a lavorare e a scrivere e di colpo ci alziamo, facendo le corna. Accendiamo e spegniamo la lampada per 3 volte, perché d'improvviso ci siamo detti che solo questo potrà salvarci dalla sventura. Ci rifiutiamo al dolore. Lo sentiamo venire e ci nascondiamo dietro le poltrone, dietro le tende, per non farci trovare. Ma viene allora il dolore per noi. L'avevamo aspettato, eppure non lo riconosciamo subito. Non lo chiamiamo subito col suo nome. Storditi e increduli, fiduciosi che tutto si potrà rimediare, scendiamo le scale della nostra casa, chiudiamo quella porta per sempre. Camminiamo interminabilmente per strade di polvere. Ci inseguono e noi ci nascondiamo. Ci nascondiamo nei conventi e nei boschi, nei granai e nei vicoli, nelle stive delle navi e nelle cantine. Impariamo a chiedere aiuto al primo che passa. Non sappiamo se sia un amico o un nemico, se vorrà soccorrerci o tradirci, ma non abbiamo scelta e per un attimo gli affidiamo la nostra vita. Anche impariamo a dare aiuto al primo che passa e sempre custodiamo in noi la fiducia che tra poco, tra qualche ora o tra qualche giorno, torneremo alla nostra casa coi tappeti e le lampade. Saremo carezzati e consolati. I nostri figli siederanno a giocare con un grembiule pulito, con delle pantofole rosse. Dormiamo con i nostri figli nelle stazioni, sulle gradinate della chiesa, negli alberghi dei poveri. Siamo poveri, pensiamo senza nessuna fierezza. Scompare in noi a poco ogni traccia dell'orgoglio infantile. Abbiamo della vera fame e del vero freddo. Non sentiamo più paura. La paura è penetrata in noi, è una cosa sola con la nostra stanchezza. È lo sguardo inaridito e immemore che gettiamo alle cose. Solo a tratti, dal fondo della nostra stanchezza, risale in noi la coscienza delle cose, così pungente da farci venire le lacrime. Forse guardiamo la terra per l'ultima volta. Mai abbiamo sentito con tanta forza l'amore che ci lega alla polvere delle strade, agli altissimi gridi degli uccelli, a quel ritmo affannoso del respiro in noi. Ma ci sentiamo più forti di quel ritmo affannoso. Lo sentiamo in noi così sordo, così lontano, come se non fosse più nostro. Mai abbiamo tanto amato i nostri figli, il loro peso fra le nostre braccia, la carezza dei loro capelli sulle nostre guance. Pure non sentiamo più paura nemmeno per i nostri figli. Diciamo a Dio che li protegga se vuole, gli diciamo di fare come vuole. E adesso siamo veramente adulti, pensiamo un mattino guardando nello specchio il nostro viso solcato, scavato, guardandolo senza nessuna fierezza, senza nessuna curiosità, con un po' di misericordia. Abbiamo di nuovo uno specchio fra 4 pareti. Chissà, forse fra poco avremo anche di nuovo un tappeto, una lampada forse. Ma abbiamo perduto le persone più care. E allora cosa ci importa ormai di tappeti, di pantofole rosse? Impariamo a riporre e a custodire gli oggetti dei morti, a tornare da soli nei luoghi dove eravamo stati con loro, a interrogare, sentendoci intorno il silenzio. Non abbiamo più paura della morte. Guardiamo nella morte ogni ora, ogni minuto, ricordando il suo grande silenzio sul più caro viso. E adesso siamo veramente adulti, pensiamo, e ci sentiamo stupiti che essere adulti sia questo. Non davvero tutto quello che da ragazzi avevamo creduto, non davvero la sicurezza di sé, non davvero un sereno possesso su tutte le cose della terra. Siamo adulti perché abbiamo alle spalle la presenza muta delle persone morte, a cui chiediamo un giudizio sul nostro comportamento attuale, a cui chiediamo perdono delle passate offese. Vorremmo strappare dal nostro passato tante nostre parole crudeli, tanti gesti crudeli che abbiamo compiuto quando pure temevamo la morte, ma non sapevamo, non avevamo capito com'era irreparabile, senza rimedio la morte. Siamo adulti per tutte le mute risposte, per tutto il muto perdono dei morti che portiamo dentro di noi. Siamo adulti per quel breve momento che un giorno ci è toccato di vivere, quando abbiamo guardato come per l'ultima volta tutte le cose della terra e abbiamo rinunciato a possederle, le abbiamo restituite alla volontà di Dio. Ed un tratto le cose della terra ci sono apparse al loro giusto posto sotto il cielo. E così anche gli esseri umani e noi stessi sospesi a guardare dall'unico posto giusto che ci sia dato. Esseri umani, cose e memorie, tutto ci è apparso al suo posto giusto sotto il cielo. In quel breve momento abbiamo trovato un equilibrio alla nostra vita oscillante e ci sembra che potremo sempre ritrovare quel momento segreto, ricercare là le parole per il nostro mestiere, le nostre parole per il prossimo, guardare il prossimo con uno sguardo sempre giusto e libero, non lo sguardo timoroso, sprezzante di chi sempre si chiede, in presenza del prossimo, se sarà suo padrone o suo servo. Noi tutta la vita non abbiamo saputo essere che padroni o servi, ma in quel nostro momento segreto, in quel momento del pieno equilibrio, abbiamo saputo che non c'era vera padronanza né vera servitù sulla terra. Così adesso, tornando a quel nostro momento segreto, cercheremo negli altri se già è toccato loro di vivere un momento identico o se ancora ne sono lontani. È questo che importa sapere. Nella vita d'un essere umano è il momento più alto ed è necessario che stiamo con gli altri tenendo gli occhi al momento più alto del loro destino. Con meraviglia ci accorgiamo che adulti non abbiamo perduto la nostra antica timidezza di fronte al prossimo. La vita non ci ha per niente aiutato a liberarci dalla timidezza. Siamo ancora timidi. Soltanto non ce ne importa. Ci sembra d'esserci conquistato il diritto d'essere timidi. Siamo timidi senza timidezza. Arditamente timidi. Timidamente cerchiamo le parole giuste in noi. Ci rallegriamo tanto di trovarle con timidezza, ma quasi senza fatica. Ci rallegriamo d'avere così tante parole in noi, così tante parole per il prossimo, che siamo come ubriacati di facilità, di naturalezza. E la storia dei rapporti umani non è mai finita in noi, perché a poco succede che ci diventano fin troppo facili, fin troppo naturali e spontanei i rapporti umani. Così spontanei, così senza fatica, che non sono più ricchezza, né scoperta, né scelta. Sono solo abitudine e compiacimento. Ubriacamento di naturalezza. Noi crediamo sempre di poter tornare a quel nostro momento segreto, di poter sempre attingerci giuste parole. Ma non è vero che ci possiamo sempre tornare. Tante volte i nostri sono falsi ritorni. Accendiamo di falsa luce i nostri occhi. Simuliamo sollecitudine e calore al prossimo e siamo in realtà di nuovo contratti, rannicchiati e gelati sul buio del nostro cuore. I rapporti umani si devono riscoprire e reinventare ogni giorno. Ci dobbiamo sempre ricordare che ogni specie di incontro col prossimo è un'azione umana e dunque è sempre male o bene, verità o menzogna, carità o peccato. Noi siamo ora così adulti che i nostri figli adolescenti già prendono a guardarci con occhi di pietra. Ne soffriamo, pur sapendo bene cos'è quello sguardo, pur ricordando bene d'aver avuto un identico sguardo. Ne soffriamo e ci lamentiamo. Bisbigliamo domande sospettose, pur sapendo ormai così bene come si svolge la lunga catena dei rapporti umani, la sua lunga parabola necessaria, tutta la lunga strada che ci tocca percorrere per arrivare ad avere un poco di misericordia.